Hit questo viene dal etichetta Defected e ce l'ha proposto stasera Alessandro Di Laurentiis DJ. Oh, Alessandro che sarà fino alle 10 con noi stasera e poi se ne va Michel Ma per fare la serata radio tour, quindi si scalda, voi vi scaldate in questo orario e in queste paio di ore, queste tre ore che abbiamo e poi ci vediamo tutti quanti lì. Allora il nostro GSM Box, come sapete, 0348 24 38 888. Ciao, vorrei salutare con un bacione la mia bellissima sorellina Dada e il suo piccolo fidanzatino Lello. Grazie Don Mommolino, grazie a te Mommolino. You're listening to House Club on Live on Mix on Radio Tour of the Moving Station. Ecco i King Unique, adesso arrivano i First Choice. Choice on Live on Mix on Radio Tour, the Movie Station, Alessandro Di Laurentiis DJ, you're listening to House Club, e quello lì The Player parla del son of a gun, cioè figlio della pistola, e quello magari non vuol dire niente, però in inglese si vuol dire mamma mia, caspita, that's incredible, son of a gun. Infatti è incredibile stare con voi questo sabato sera che siamo tutti quanti a riscaldarci per le serate che ci aspetta, a ballare ragazzi, a ballare. Live on Mix vi prepara per quello sabato che vi aspetta ogni sabato sera. Ecco, sabato arriva ogni sabato, mi sembra molto logico. Ok, First Choice there, adesso Crystal Clear featuring Alessandra. Ciao Alessandra, perché non lo dici? Say it! Sì dai, questo Alessandra che è una parte dei Crystal Clear, questo disco Say It praticamente sembra una pubblicità, no? Quello pubblicità Just Do It, fatelo e basta, invece di pensarci perché non la dici e lascialo stare. Insomma, questo è Crystal Clear featuring Alessandra e questo conclude il primo appuntamento con House Club con il nostro DJ Alessandro Di Laurentiis. A proposito di pubblicità, la facciamo pure noi promo in tour, dove facciamo sentire tutta musica che è sulla etichetta bianco, cioè non si può comprare questa versione, e questa è una versione remixata di Sade with la sua bellissimo brano By Your Side, anzi dovrei dire il suo bellissimo brano, no? Ma comunque mi confondo sempre quando c'è la bella voce di Sade vicino, è difficile non confondersi perché a parte la bellezza fisica c'ha pure una bella voce. Grazie a Alessandro Di Laurentiis di averci proposto questo. Ok, Beltrami coming up on Promo in Tour live on Mix. Party, ho bisogno di una festa a casa. E perché no? Perché no? O forse parla di una festa della musica house, forse quello è più probabile. Infatti you're listening to Promo in Tour, l'etichetta bianca. Non sono tutte nuove, però sono tutti in versione non uscito in pubblico, per il pubblico, cioè etichetta bianco. Avete sentito Sade, Another Funk, Beltrami and Disco Tex. Allora Alessandro Di Laurentiis ci ha proposto questo, ma Alessandro stasera non fa solo questo. Che altro fa Alessandro? Mo vediamo. Radio Tour in Tour. Radio Tour in Tour. In tour con Antonio Ciotola ed Alessandro Di Laurentiis DJ, sabato 2 dicembre, cioè stasera, al Michel Ma di Pozzuoli, Napoli. Vibrazioni uniche in diretta su Radio Tour. Radio Tour in Tour. Tour. Chiama 081 790 1411. SPOT. Cioè non mette in mani vicino al mio uomo, non ti preoccupare Lucy, io non però non ti preoccupare. Prima di quello avete sentito Drizza with Let It Out. This is all a part of House Club. House Club, il terzo quarto diciamo di Live on Mix di Alessandro Di Laurentiis DJ. Allora chi devo salutare? GSM Box 0348 24 38 888. Devo salutare a Ludo. Ludo ha scritto, ha detto volevo dire a Chandra, la mia best friend, che la voglio tantissimo bene. Ecco, hai capito Chandra? Questo viene da Ludo. Eppure tanti saluti a Sabina e a Grazia che stanno a casa a studiare, a preparare il progetto e stanno ascoltando Live on Mix per voi, Lionel Richie with Angel. Do you like? Si è preso le ali e è volato proprio e adesso arrivano al Soul Soul Nugget, Alessandro Di Laurentiis DJ on House Club. House Club, Alessandro Di Laurentiis sta DJ. Ok Alessandro, fatti una piccola pausa pure noi. It's all better, that's Until Mob on Radio Tour, the moving station. This is Live on Mix. You're listening to Alessandro Di Laurentiis, DJ, e Alessandro Guaccia ci ha regolato Made in England, questa musica two-step, e anche se la produzione two-step ormai si è allargata in tutta Europa, noi le continuiamo a chiamare così perché Londra è la capitale, è la prima città dove è sfornato questo genere musicale. E grazie Alessandro Di Laurentiis per tua contribuzione. Ci sentiamo tra poco, tra un paio di ore, quando colleghiamoci con Michel Ma. Dove tu ci vai adesso, vero? Sì, eccolo, si sta preparando di andare, ma smetti di suonare allora. Comunque questa sera è tutti i sabato di dicembre lì al Michel Ma di Pozzuoli, diretta su Radio Tour, e tutti i martedì, giovedì e venerdì dal Sly Music Club a Via Orazio qua a Napoli. Allora controlliamo l'orologio, lasciamo Alessandro Di Laurentiis prepararsi per andare. Ladies and gentlemen, the clock. Radio Tour. Le 22. Radio Tour, the moving station. Presenta. Live in the mix. And the warning. Warning. Intruder approaching. Listen to sound. Live on Mix, yeah, sempre con voi, Live on Mix. Io sono Fergo Cavana, con me c'è Fiore alla regia. E Alessandro se n'è andato e adesso si sta preparando proprio Giancarlo Cavallo DJ, che rimarrà con noi fino alle 11 stasera. Quattro parti per il suo programma, la sapete già se ci seguite ogni sabato sera. Che vuol dire che non ci seguite ogni sabato sera? È impossibile, perché noi siamo la radio che vi fa preparare per questa serata ballata. Ok, Giancarlo, are you ready? Yes, he's ready. Iniziamo col White Label and House to House. Radio Tour, the moving station. Presenta. Live in the mix. Etichetta bianca, cioè quelli che non hanno un distributore ufficiale, diciamo. Avete sentito House to House with the Latin Soul Thing. Poi avete sentito adesso Per QX, he's the best. Allora, chi devo salutare? GSM Box 0348 24 38 888. Saluti a Steffi, che è rientrato dall'Olanda per la fine settimana. Ma che bella cosa, rientrato dall'Olanda per la fine settimana. Va bene per te, Big Time Charlie, featuring Susie Q. Top this section of the program, chiudiamo questa parte qua di White Label. Però non vi preoccupate, Giancarlo Cavallo non va da nessuna parte, rimane qua, però fa una piccola pausa. Hey, you. Mix GSM Box, lo sapete, 0348 24 38 888. Ci è scritto Franci e ha detto: sono troppo ingrippato per Carlo, come faccio? Bye Franci. E non lo so, perché non lo chiami e dillo sabato sera stai ascoltando Live on Mix, hai tutto riscaldato, andiamo insieme a ballare e poi vedere che succede. Questa è la cosa, Live on Mix, pieno di consigli da fare e la musica danza pure, che Giancarlo Cavallo DJ ci propone. Carlo Cavallo DJ, Wayne Nino, Giancarlo ti ringrazio per il messaggio e promette di accontentarti la settimana prossima. Allora, a proposito di appuntamenti, Radio Tour in Tour. Radio Tour in Tour. In tour con Antonio Ciotola ed Alessandro Di Laurentiis DJ stasera al Michele Ma di Pozzuoli Napoli. Vibrazioni uniche in diretta su Radio Tour. Radio Tour in Tour. Tour. Chiama 081 790 1411. sappi che c'è qualcosa nella gola, sta provando di espellarlo, però no, invece state per ascoltare un bellissimo remix di un brano che sapete se siete fan di Radio Tour The Movie Station, perché questo è stato una delle nostre new hit, però molto tempo fa, adesso è un attuale hit, Giancarlo Cavallo DJ che ci le propone, If I Ever Feel Better from Phoenix, quel gruppo francese, tutto remixato per voi on Live on Mix. Sono i ragazzi cattivi, vabbè, non si chiamano così, si chiamano Nasty Boys, e nasty vuol dire qualcuno che non è proprio una persona molto simpatica, molto gentile per niente, però a me è piaciuto questi Nasty Boys. Io non sono una persona cattiva, però la musica dei Nasty Boys è bravo, sono bravissimi. Ecco i Soul Providers adesso, Giancarlo Cavallo DJ. Con quello conclude questa sezione di Live on Mix. Avete sentito Giorgi Borgi, Phoenix, Nasty Boys, Soul Providers, The Love Fight. Mamma mia, che mix proprio. Giancarlo Cavallo DJ non si è stancato nemmeno. Comunque dai, ti regaliamo una pubblicità lo stesso, una pausa, vai. Totò con Giorgi Borgi, l'etichetta Colombia. Una volta com'era, ma come sarà? Vediamo. Giancarlo Cavallo DJ. As it will be. In questo appuntamento Giancarlo Cavallo DJ ci propone un vecchio brano, un vecchio successo, e poi subito dopo ci fa sentire com'è nel versione remixata dai Free Project, il versione 2000. Allora avete sentito Toto e Giorgi Borgi dal 1978, parecchio tempo fa, stiamo parlando di 22 anni fa. Ma mo per il 2000 vediamo come i Free Project con Domi alla voce. Dobbiamo sempre ringraziare Domi, la bella voce dei Free Project. Come hanno fatto con questa versione? Giorgi Borgi, il nome del brano, il Free Project remixato nel 2000. Them cry, ha baciato le ragazze e l'ha fatto piangere, mamma mia, mamma, chi è questo Giorgi Borgi? Comunque ha avuto la possibilità di baciare le ragazze almeno prima che hanno pianto, questa è l'importanza. Yes, versione 2000, questo è il remix di un brano dei Toto del 1978. Avete sentito il remix dei Free Project, e si ringrazia come sempre Domi, il cantante dei Free Project, per questo bellissimo remix, questo bellissimo aggiornamento, e ringraziamo pure Giancarlo Cavallo DJ che è stato con noi dalle 10 stasera. Adesso si prepara per andare e dopo l'orologio avremo qualcun altro. Grazie Giancarlo. Ladies and gentlemen, the clock. Le 23:02. We interrupt this program to broadcast a warning. Warning, warning, intruder approaching. Listen to sound. On Mix, you're listening to Live on Mix. Yes, Fergal Cavanaugh alla voce, abbiamo Fiore alla regia, e adesso abbiamo un nuovo DJ tutto pronto per riscaldarvi questo terzo ora di Live on Mix on sabato 2 dicembre. Ragazzi, siete pronti? Siete tutti preparati per andare al discoteca? Siete già in traffico? Siete per strada? Fateci sapere, sapete il GSM Box 0348 24 38 888. Basta di io che parla, facciamo la musica parlare. Il DJ Enzo Capicelli è pronto e via! Carlitos Bar, chi ci ha portato a Carlitos Bar? Ci ha portato il DJ Enzo Capicelli. E dove su Live on Mix on Radio Tour The Moving Station? You're listening to Enzo Capicelli DJ, Fergal Cavanaugh alla voce, abbiamo Fiore alla tecnologia, alla regia. Ok, il GSM Box per farci sapere che state facendo, dove state andando. Siete andando al Michel Ma, il nostro serata? Siete andando da qualche altra parte? Siete in compagnia di una bella ragazza, di un bel ragazzo? Ci volete fare sapere, ci volete salutare? Basta scriverci 0348 24 38 888. Torniamo tra pochissimo. SPOT. Pollo fritto in gasolio. Mega Cheeseburger Extra. Radiofonica ogni sabato sera live on mix. E questo sabato sera, quando live on mix finisce alla mezza tra un'ora, che potete fare? Infatti la potete pure fare subito adesso. Forse siete già lì. Già dove? Vediamo. Radio Tour in Tour. Radio Tour in Tour. In tour con Antonio Ciotola ed Alessandro Di Laurentiis DJ stasera al Michele Ma di Pozzuoli Napoli. Vibrazioni uniche in diretta su Radio Tour. Radio Tour in Tour. Tour. Chiama 081 790 1411. SPOT. Dal 10 novembre al 7 gennaio a Città della Scienza, Futuro Remoto Sport. Futuro Remoto Sport. Lo sport, il movimento, il benessere per una... Non si può negare, è vero. Comunque Enzo Cappicelli DJ vi accompagna al B52, l'appuntamento ogni sabato sera live on mix. Enzo Cappicelli adesso fa una pausa, prepara i dischi per il suo prossimo pezzo al B52 dopo la pausa pubblicitaria. SPO, we interrupt this program to broadcast a warning. Warning, intruder approaching. Listen to sound. On Saturday evening, allora manca pochissimo l'appuntamento con Michele Ma Pozzuoli, serata di Radio Tour con Alessandro Di Laurentiis DJ e lo speaker Antonio Ciotolo. Allora se n'è andato Enzo Cappicelli DJ e quindi adesso arriva Carlo Grieco DJ per farci ballare fino alla mezza e forse anche oltre. Allora che ci proponi? Fammi vedere questo disco che c'hai adesso. Sta mettendo il DJ Rolando. Allora facciamo parlare la musica. Vai Carlo! Radio Tour, the movie station. Presenta. Live in the mix.